Radio 24 Reportage. Il mio Kubrick, l'autista racconta, di Alessandra Tedesco. Kubrick è stato uno dei registi più amati del cinema internazionale. Basta citare alcuni dei suoi film, da Arancia Meccanica a 2001 Odissea nello spazio, da Lolita a Shining, da Full Metal Jacket ad Eyes Wide Shut. Di lui, morto nel 99, si è detto di tutto e di più, che era un genio ma anche un misantropo, un perfezionista e un provocatore. Ma chi era veramente Stanley Kubrick? Conoscere il Kubrick privato serve anche a conoscere meglio il Kubrick regista. E così siamo entrati nella sua vita attraverso la testimonianza di Emilio D'Alessandro, l'uomo che per 30 anni gli ha fatto da autista, da assistente personale, da amico fedele. Insieme a Filippo Olivieri ha scritto il libro Stanley Kubrick e me, pubblicato da Il Saggiatore, un libro che ripercorre il connubio fra il regista e l'autista a partire dal primo incontro. Tutto inizia nel 1960. Il 19enne Emilio lascia Cassino e l'Italia per evitare il servizio militare e va a Londra in cerca di lavoro. Non sa una parola d'inglese, ma non è certo il tipo da arrendersi alla prima difficoltà. Cambia una serie di lavori finché non si appassiona alla guida. Frequenta una scuola di pilotaggio, di lui parla anche un giornale locale, e inizia a fare l'autista per una società che fornisce servizi anche a Stanley Kubrick. Un giorno Emilio riceve un incarico particolare. È l'inverno del 1970, le strade sono ghiacciate e serve qualcuno che porti un enorme fallo di plastica sul set di Arancia Meccanica, come racconta lo stesso D'Alessandro. Questo lavoro fu quando le strade erano gelate e i suoi, perché stavano girando Clockwork Orange. Questi autisti non erano tanto sicuri delle condizioni della strada, allora telefonarono alla compagnia dove io prendevo lavoro se c'avevano un autista che sapeva negoziare condizioni stradali. Scelse loro a me perché io avevo fatto tutte le istruzioni e fece questo lavoro. Io penso che Stanley avrà domandato: ma chi l'ha portato questo? Che era un enorme fallo. E così fu. Dopo un paio di mesi che lavoravo con questa compagnia, una delle segretarie di Stanley disse a me: ma tu ti rendi conto per chi stai lavorando? E disse: no, Hawk Films. No, ma Stanley Kubrick. E disse: beh, chi è questo? Quando me l'ha detto, disse: ma per me non significa niente. Ma i film non li guardi? Dissi: al momento no, qualche western, ma no di altro. E il giorno dopo mi disse a me: Stanley Kubrick ti vuole conoscere. Dissi: va bene. E così il giorno dopo, nella sala d'aspetto, mi hanno fatto entrare là e mi ha detto: adesso dico a Stanley Kubrick che sei qui. Si è aperta la porta ed ho visto questa persona che non era come gli altri registi ben vestiti, eccetera. Vestiva proprio con una cosa casuale, ma peggio pure, va. Purtroppo facciamo di quel modo. E quando lui mi ha dato la mano, ha fatto: io sono Stanley Kubrick. Oh, piacere, io sono Emilio D'Alessandro. Questo è il primo incontro fra Stanley Kubrick ed Emilio D'Alessandro, che non ha la minima idea di essere davanti ad uno dei registi più geniali della storia del cinema. Con il passare del tempo, Kubrick diventa sempre più esigente. Sabato, domenica, giorni festivi, per esempio Natale, Pasqua, però io non gli dissi niente, era lui che o cercava o provava e mi ha trovato sempre, sempre disponibile. A ogni ora di notte, sempre disponibile. Allora, dopo un po' di tempo ancora, mi ha chiesto se volevo essere il suo autista personale. E disse: che significa? Beh, fai di meno il lavoro per la compagnia e ti occupi della mia famiglia e di me. Hello, for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. D'Alessandro diventa così l'autista esclusivo del regista americano naturalizzato inglese. Si occupa non solo della sua famiglia, ma anche degli attori che di volta in volta si alternano sul set. Inizia anche ad occuparsi degli animali domestici, soprattutto cani e gatti. Più che un semplice autista, D'Alessandro è un factotum di cui Kubrick non può più fare a meno. Il rapporto ogni giorno aumentava per migliorare, ogni giorno. Che poi siamo diventati come una famiglia. Mi ha cominciato a consegnare le chiavi di casa, tutte le macchine, e tutta la responsabilità ed attenzione. Fino a che ultimamente le chiavi dei suoi uffici, sia a casa, sia nell'appartamento privato e sia negli uffici, negli studi cinematografici. Emilio finisce anche per fare da interprete, soprattutto nelle telefonate fra Kubrick e Federico Fellini. Ecco di che cosa parlavano. Roba cinematografica dei film che erano già stati fatti. Stanley voleva sapere perché a quel numero di scena c'è questa battuta che io non ci capivo niente. Allora ce lo scrivevo su un foglio di carta che disse: allora io te lo scrivo e te lo traduco in inglese, del resto io non ci capisco niente, tra te e Fellini. Fellini, mi dice in inglese la domanda per fare a Fellini. Il legame fra Emilio e Kubrick si fa sempre più intenso, tanto che il regista mette il nome di D'Alessandro come assistente alla produzione nei titoli di coda dei suoi ultimi tre film, Shining, Full Metal Jacket ed Eyes Wide Shut. In particolare in Eyes Wide Shut l'autista fa anche una comparsata, è il giornalaio che vende un quotidiano a Tom Cruise. Per Kubrick, Emilio non è solo un dipendente, ma un amico sincero. Conosce i suoi sentimenti e le sue paure, come sulle polemiche che scoppiarono su Arancia Meccanica. Si voleva essere protetto dalle cose che sono succedute con Arancia Meccanica. Tutte quelle polemiche, lui per proteggersi, proteggere la famiglia e del pubblico che l'ha interpretato male. E allora lui si sentiva così male che ha ritirato il film per anni. Il ritratto che D'Alessandro fa del regista nel libro Stanley Kubrick e me è dunque un ritratto molto personale, fatto da chi lo ha conosciuto da vicino e gli ha voluto bene fino alla fine. Una bella, brava, cortese, gentile persona. Non ho nessuna parola differente di questa. La persona era eccellente. Amava vedere, chiacchierare con le persone. Preferiva via telefono. Perché ci sta, non lo so, differente comunicazione via telefono. A lui non gli piaceva, per esempio, ad andare fuori questi pranzi o cene, parties, odiava i parties. Se qualche cosa, lui c'aveva tutto di tutto per risolvere questo a casa. Una persona responsabile, per tutti, per tutto. Se succedeva qualche cosa, uno dei membri della troupe, lui si preoccupava sia per il medico sia per l'infermiere, per calmare, far sentire quella famiglia comoda, e lui anche si sentiva più agevole e soddisfatto che l'aveva aiutato. Questo è Kubrick, era Kubrick. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.